Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonanotte, buonasera a tutti, io sono Marco e sono qui a presentarvi un pezzo che ho scritto. È un brano di musica, chiamiamola così, hard rock, metal, glam. In questo caso la mando subito il pezzo, è una chicca, è tratto dall'album Rust in Peace dei Megadeth ed è una canzone arrangiata da Dave Mustaine per un solo basso, dai, è per batteria. Vi faccio ascoltare il pezzo e poi vi leggerò il mio brano. Ciao, io sono Marco. Questo è il pezzo che invece ho scritto io e che ho pensato per voi di leggere questa sera. Lo dedico a una mia cara amica che amo, a cui ho voluto molto bene, si chiama Agatha, adesso sta in Svizzera, ha avuto un bambino, e anche ad altri amici e amiche del periodo che va dai miei 20 ai miei 35 anni, adesso ne ho 43 per la cronica. Ok, vi lascio la parola a, diciamo così, alla letteratura. Orgoglio a orologeria, quattrino squinternato che a quartiera arte. Sferra l'acciaio legato e disgiunto, ingiunto nei legamenti, sedimento sedentario sideralmente assiderato. Acciacca il ferro, ciacco e ferrato, giunto a giungere tra le giunte ingiuriose, rio erto che erta rea inerpica. Afferra l'acciarino, ciarlando raffermo in ferma cialtroneria, intronando in tornado tronfi trionfanti. E così viene che viene così, convenevole e svenevole, o benefica convenienza che conviene avvelenare venerando il verno, e brava ribalderia e ribalda bravata che costerna lo sterno estenuando stentorea. I beni sono male se ne beneficano malvagi, il bene è malvagio se male ne benefici. Ebbene, beneficio e male, malvagità, vagola nella vagina svagato, avviluppando la vulva, evolvendo il viluppo in via vai evoluti, e adora, adora, adorare la triade sdraiata, appannata supina e soppiantata spianata. Al montare dell'alba tramonta l'aurora, al tramontare del mattino monta il giorno di mezzo, e gli eventi vanno mentre vengono le evenienze, e la strada dell'uomo non è l'uomo della strada, ma l'umanità instradata. I casi occasionali sono occasioni casuali, i castelli costellati costano il calco dell'oro e l'argento della magagna, annienta l'annullamento annullando l'annientamento. Soffriamo patimenti patendo sofferenze, incartati in Cartesio, frassino dell'assassino. Saluto. Bene, con questa vi lascio e saluto tutti i miei amici, come vi dicevo, e spero di sentirvi presto. Buona nottata e buon divertimento. Ciao a tutti. Solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.